ad alta voce. Daria De Florian legge Il diario di Anna Frank. Martedì 11 aprile 1944. Carissima Kitty, mi gira la testa. Non so proprio da dove cominciare. Giovedì, l'ultima volta che ti ho scritto, era una giornata normale. Venerdì era Venerdì Santo e di pomeriggio abbiamo giocato al gioco della borsa. Sabato pomeriggio lo stesso. Tutti questi giorni sono passati molto in fretta. Sabato, verso le 2, è iniziato un forte bombardamento. Cannoni a tiro rapido, dicono gli uomini. Del resto, tutto tranquillo. Domenica pomeriggio, su mio invito, Peter è venuto da me alle 4:30. Alle 5:15 siamo saliti nell'anticamera della soffitta, dove siamo rimasti fino alle 6. Dalle 6 alle 7:15 per radio trasmettevano un bel concerto di Mozart. Soprattutto la Kleine Nachtmusik mi è piaciuta molto. Non riuscivo quasi ad ascoltare perché la musica bella mi mette tutta in subbuglio. Domenica sera Peter non ha potuto farsi il bagno perché la Tinozza era giù in cucina piena di roba da lavare. Alle 9:30 Peter bussa piano piano e chiede a papà se può dargli una mano con una frase inglese particolarmente difficile. «Non è vero», dico a Margot. Si sente che è una scusa. Dal tono di voce degli uomini sembra che siano venuti ladri. La mia ipotesi era esatta. Qualcuno stava cercando di scassinare il magazzino. In men che non si dica, papà, Van Dan e Peter sono scesi. Margot, mamma, la signora e io siamo rimaste ad aspettare. Quattro donne impaurite devono parlare. Così infatti abbiamo fatto anche noi, finché di sotto non abbiamo sentito un colpo. Poi silenzio. L'orologio suona le 9:15. Eravamo tutte pallidissime, ma nonostante la paura ancora tranquille. Dove si erano cacciati gli uomini? Cos'era stato quel colpo? Stavano forse lottando con gli scassinatori? Nessuna osava immaginare. Aspettavamo. Le 10. Passi sulle scale. Entra papà, pallido e nervoso, seguito dal signor Van Dan. Spegnete la luce e salite di sopra senza far rumore. Potrebbe arrivare la polizia. Non c'era tempo per aver paura. Spente le luci, ho preso ancora in fretta una maglia e siamo saliti. Che cosa è successo? Racconta! Ma non c'era più nessuno che potesse raccontare. Gli uomini erano tornati di sotto. Appena alle 10:10 vengono su tutti e quattro. Due si mettono di guardia davanti alla finestra aperta di Peter. La porta sul pianerottolo chiusa, la libreria girevole sprangata. Coperto con una maglia, la bajour. Ecco il racconto. Avendo sentito due forti colpi sul pianerottolo, Peter corre di sotto e vede che a sinistra della porta del magazzino manca un grande pannello. Torna su di corsa, avverte la parte abile della famiglia e tutti e quattro vanno giù. I ladri erano ancora all'opera quando loro entrano nel magazzino. Senza pensarci, Van Dan grida «Polizia!». Passi veloci all'esterno, i ladri sono in fuga. Per evitare che la polizia noti il buco, l'asse mancante viene rimessa a posto, ma un forte calcio dall'esterno la fa volare via di nuovo. Gli uomini sono sbigottiti davanti a tanta cattiveria. Van Dan e Peter avvertono un istinto omicida. Van Dan colpisce forte il pavimento con l'ascia. Silenzio. L'asse torna al suo posto. Altra interruzione. Da fuori una coppia illumina tutto il magazzino con una torcia tascabile. Maledizione, bofonchia uno degli uomini e... Da poliziotti si trasformano in ladri. Vengono su di corsa tutti e quattro. Dussel e Van Dan prendono i libri del primo. Peter apre porte e finestre della cucina e dell'ufficio privato. Butta a terra il telefono e poi tutti si rifugiano nell'alloggio segreto. Fine del primo tempo. Con grande probabilità, la coppia con la torcia aveva avvertito la polizia. Era domenica sera, la sera del giorno di Pasqua. Di lunedì nessuno va in ufficio, quindi nessuno si può accorgere di niente fino a martedì mattina. Pensa, stare con quella paura per due notti e un giorno. Non pensavamo a niente, ce ne stavamo al buio pesto perché per la paura la signora aveva addirittura svitato la lampadina. Parlavamo a bassa voce e a ogni scricchiolio si sentiva shh, shh. Le 10:30, le 11, niente. Papà e Vandana si davano il turno a farci compagnia. Poi alle 11:15 si sentono rumori di sotto. Si sente respirare ogni componente della famiglia, ma nessuno si muove. Passi in casa, nell'ufficio privato, nella cucina e poi sulla nostra scala. Adesso nessuno respira più udibilmente. 8 cuori battono forte. Passi sulla nostra scala. Qualcuno armeggia con lo scaffale girevole. Un momento indescrivibile. Siamo perduti, dico io, e mi par di vedere già la Gestapo che ci porta via tutti e 15 quella sera stessa. Qualcuno armeggia con lo scaffale, poi ancora cade un barattolino. I passi si allontanano. Per il momento siamo salvi. Avevamo tutti la tremarella. Sentivo battere i denti da diverse parti. Nessuno apre bocca. Restiamo così ancora fino alle 11:30. In casa non si sente più niente, ma sul pianerottolo davanti allo scaffale la luce è accesa. Forse perché è uno scaffale misterioso. Che l'abbia dimenticata accesa la polizia? Qualcuno sarebbe venuto a spegnerla? Le lingue si sciolgono. In casa non c'è più nessuno. Forse qualcuno è rimasto di guardia davanti alla porta. Facciamo 3 cose. Esprimiamo ipotesi, tremiamo di paura e dobbiamo andare in bagno. I secchi erano in soffitta. Avevamo soltanto il cestino delle immondizie di latta di Peter. Lo inaugura Vandana. Poi papà. Mamma si vergogna troppo. Papà ci porta la latta nella stanza e Margot, la signora e io ce ne serviamo volentieri. Finalmente si decide anche la mamma. C'è continua richiesta di carta. Per fortuna ne avevo un po' in tasca. Il secchio puzza. Tutti sussurrano. Siamo stanchi. È mezzanotte. Sdraiati per terra e dormi. Margot e io riceviamo un cuscino e una coperta. Margot si sdraia vicino alla dispensa, io tra le gambe del tavolo. Per terra puzza un po' meno, ma la signora va egualmente a prendere un po' di polvere candeggiante e uno strofinaccio serve come seconda protezione del vaso. Parole, bisbigli, paura, tanfo, ventosità e costantemente qualcuno sul vaso. Prova a dormire. Alle 2:30 crollo di sonno e fino alle 3:30 non mi accorgo di niente. Mi sveglio quando la signora appoggia la testa sulle mie gambe. Mi darebbe qualcosa da mettermi? Domando. Non chiedere che cosa mi vedo arrivare. Un paio di mutandoni che infilo sopra il pigiama, il maglione rosso e la gonna nera, un paio di calzini bianchi e dei calzettoni bucati. La signora torna sulla sua sedia e il marito si sdraia appoggiando la testa sulle mie gambe. Alle 3:30 comincio a pensare. Tremo ancora, tanto che Vandana non riesce a dormire. Mi preparo al ritorno della polizia. Dovremmo dire che siamo nascosti, oppure saranno bravi olandesi, allora andrà tutto bene. Se invece saranno nazisti bisognerà corromperli. «Metti via quella radio!» implora la signora. «Sì, la metto nella stufa», risponde Vandana. «Se trovano noi, possono trovare anche la radio». «Allora troveranno anche il diario di Anne», si mischia papà. «E bruciamolo», propone la più fifona di tutti. Questo e il momento in cui la polizia trafficava con lo scaffale sono stati gli istanti in cui ho avuto più paura. «Il mio diario no, dovranno passare sul mio cadavere». Ma per fortuna papà non ha più detto niente. Non ha affatto senso annotare tutti i discorsi che ricordo. Si sono dette tante cose. Io cercavo di consolare la signora che aveva paura. Parlavamo di fughe e di interrogatori della Gestapo, di telefonate e di avere coraggio. Adesso, signora, dobbiamo comportarci come soldati. Se dovremo soccombere, lo faremo per la regina e per la patria, per la libertà, la verità e la giustizia, proprio come dice di continuo Radio Orange. L'unica cosa terribile è che ce li trascineremo tutti dietro nella disgrazia. Dopo un'ora, il signor Van Dan scambia di nuovo il posto con la moglie e papà viene da me. Gli uomini fumano come camini, ogni tanto un profondo sospiro, poi una pisciatina e poi di nuovo tutto da capo. Le 4, le 5, le 5:30. Vado da Peter ad ascoltare i rumori. Stavamo seduti stretti stretti, tanto che ognuno sentiva i tremori dell'altro. Ogni tanto scambiavamo qualche parola e ascoltavamo attentamente. Nessuno di noi si era mai trovato tanto in pericolo come quella notte. Dio ci ha proprio protetti molto. Prova a pensare. La polizia davanti allo scaffale segreto, la luce accesa e nessuno ci scopre. Siamo perduti, ho detto sottovoce in quel momento. Invece siamo ancora salvi. Quando cadono le bombe ognuno può badare a se stesso, ma questa volta avevamo paura per quei buoni cristiani innocenti. Siamo salvi, continua a proteggerci, è l'unica cosa che possiamo dire. Questa storia ha portato con sé cambiamenti notevoli. Dussel ora andrà in bagno di sera. Peter farà un giro di perlustrazione alle 8:30 e alle 9:30. La finestra di Peter non si dovrà più aprire, visto che l'uomo della keg l'ha vista aperta. Dopo le 9:30 di sera non si potrà più tirare l'acqua. Il signor Schläger è stato ingaggiato come guardiano notturno. Questa sera verrà un falegname clandestino e userà i nostri letti bianchi di Francoforte per fare una barricata. Nell'alloggio segreto si dibattono i pro e i contro. Kugler ci ha sgridati perché siamo stati incauti e anche Ian ha detto che non dobbiamo mai andare di sotto. Adesso resta da capire se Schläger sia affidabile o meno, se i cani si mettono ad abbaiare sentendo qualcuno dietro la porta, come fare la barricata e 100 altre cose. Siamo stati costretti a ricordarci di essere ebrei incarcerati in casa, privi di diritti, con migliaia di doveri. Noi ebrei non possiamo far valere i nostri sentimenti, dobbiamo essere coraggiosi e forti, prenderci tutte le grane senza lamentarci, dobbiamo fare quello che possiamo e avere fiducia in Dio. Prima o poi questa terribile guerra finirà e torneremo a essere uomini e non soltanto ebrei. Chi ci ha imposto questo? Chi ha fatto sì che noi ebrei fossimo un'eccezione tra tutti i popoli? Chi ci ha costretti a soffrire tanto? È stato Dio a farci così, ma sarà anche Lui a risollevarci. Se sopporteremo tutto questo, e alla fine ci saranno ancora ebrei, un domani gli ebrei non saranno più proscritti, ma daranno il buon esempio. Chissà. Forse sarà ancora la nostra fede a insegnare il bene al mondo e quindi a tutti i popoli, e per questo, solo per questo, noi dobbiamo soffrire. Non saremo mai solo olandesi o inglesi o cittadini di una nazione qualunque, noi dovremo restare sempre anche ebrei. Del resto, vogliamo restarlo. Coraggio. Dobbiamo essere consapevoli della nostra missione e non lamentarci. Una soluzione ci sarà. Dio non ha mai abbandonato il nostro popolo. Nei secoli ci sono sempre stati ebrei e hanno dovuto soffrire, ma nel frattempo sono anche diventati più forti. I deboli soccomberanno e i forti si salveranno e non saranno mai sconfitti. Veramente quella notte ho capito che dovevo morire. Aspettavo la polizia, ero pronta, pronta come i soldati sul campo di battaglia. Volentieri mi sarei sacrificata per la patria, ma adesso che sono di nuovo salva, il mio primo desiderio dopo la fine della guerra è diventare cittadina olandese. Mi piace questo popolo, mi piace il nostro paese, mi piace la lingua e desidero lavorare qui. dovessi scrivere alla regina in persona, non mi piegherò prima di aver raggiunto il mio scopo. Sono sempre più indipendente dai miei genitori. Giovane come sono, ho più coraggio di vivere e un senso della giustizia più giusto e innocente della mamma. So quello che voglio, ho uno scopo, un'opinione, una fede e un amore. Lasciatemi essere me stessa e sarò contenta. So di essere donna, una donna con una forza interiore e tanto coraggio. Se Dio mi farà vivere, otterrò di più di quanto la mamma non abbia mai ottenuto. Non sarò mai insignificante. Lavorerò nel mondo e per gli uomini. E adesso so che il coraggio e la gioia sono le cose più necessarie. Tua Anne Marie Frank. Domenica 16 aprile 1944. Carissima Kitty, ricordati la data di ieri, perché è molto importante nella mia vita. Non è forse sempre importante per una ragazza ricevere il primo bacio? Beh, per me lo è stato. Il bacio che Brahma mi ha dato sulla guancia destra non conta, proprio come quello di Woodstra sulla mano destra. Ma aspetta che ti racconto com'è stato che improvvisamente ho ricevuto questo primo bacio. Ieri sera alle 8 sedevo con Peter sul suo divano e ben presto lui mi ha messo un braccio attorno alle spalle. Dato che era sabato, non aveva addosso la tuta. Spostiamoci un po' più in là, gli ho detto io, così non sbatto la testa contro l'armadietto. Lui è scivolato quasi fino nell'angolino e io ho passato il braccio sotto il suo. Poi mi ha quasi sommersa mettendomi il braccio sulle spalle. Beh, eravamo già stati seduti così altre volte, ma mai vicini come ieri. Mi stringeva forte contro di sé, il mio seno sinistro era sul suo. A me il cuore batteva già più forte, ma non avevamo ancora finito. Non si è dato pace finché non è riuscito a farmi appoggiare la testa sulla spalla e a metterci la sua sopra. Dopo circa 5 minuti, quando mi sono drizzata un po', lui mi ha preso la testa con le mani e se l'è di nuovo appoggiata sulla spalla. Oh, era così meraviglioso. Non riuscivo quasi a parlare, tant'ero felice. Mi ha accarezzato in modo un po' maldestro sulla guancia e sul braccio. Ha giocherellato con i miei riccioli e per quasi tutto il tempo le nostre teste sono rimaste vicine. Non saprei descriverti la sensazione che mi invadeva, Kitty. Ero troppo felice, e anche lui, credo. Alle 8:30 ci siamo alzati. Peter si è messo le scarpe da ginnastica per non far rumore nel suo secondo giro di perlustrazione e io ero lì vicino. Non so proprio come fossi riuscita a trovare il movimento giusto. A ogni modo, prima di scendere, mi ha dato un bacio tra i capelli. Mezzo sulla guancia sinistra e mezzo sull'orecchio. Io sono scesa di corsa, senza girarmi. Non vedo l'ora per oggi. Domenica mattina, poco prima delle 11:00. Tua Anne Marie Frank. Lunedì 17 aprile 1944. Cara Kitty, credi che papà e mamma mi permetterebbero di stare su un divano a sbaciucchiare un ragazzo di 17 anni e mezzo, a me che ne ho quasi 15? In realtà penso proprio di no, ma questa volta devo fare affidamento solo su me stessa. Mi sento così tranquilla e sicura a sognare tra le sue braccia. Il contatto della sua guancia sulla mia è così eccitante, così stupendo sapere che c'è qualcuno che mi aspetta. Ma c'è un ma. Peter si accontenterà di questo? Non ho dimenticato la sua promessa, ma è pur sempre un ragazzo. So bene di essere un po' precoce, non ho ancora 15 anni e sono già così indipendente. Gli altri non riusciranno a capire. Sono quasi sicura che Margot non darà mai un bacio a un ragazzo prima di parlare di fidanzamento e di matrimonio. Né Peter né io abbiamo di questi progetti. Anche la mamma sicuramente non aveva toccato nessun uomo prima di papà. Che cosa ne direbbero le mie amiche o Jack se sapessero che sono stata tra le braccia di Peter, con il cuore sul suo petto, con la testa sulla sua spalla, con il suo capo e la faccia sulla mia? Che vergogna, Anne. Ma tutto sommato non mi pare scandaloso. Siamo qui rinchiusi, isolati dal mondo, pieni di paura e pensieri, soprattutto negli ultimi tempi. Perché noi che ci vogliamo bene dovremmo stare divisi? Perché in questo periodo non dovremmo baciarci? Perché dovremmo aspettare di avere l'età giusta? Perché dovremmo chiedere il permesso? Mi sono presa l'impegno di badare me stessa. E lui non mi farebbe uno sgarbo o del male. Perché allora non dovrei fare quello che il cuore mi detta e renderci felici entrambi? Però mi sa che tu, cara Kitty, avrai capito che sono un po' indecisa. Credo che sia la mia onestà che si ribella contro questa segretezza. Secondo te dovrei dire a papà che cosa faccio? Pensi che il nostro segreto debba giungere all'orecchio di una terza persona? Poi sarebbe molto meno bello, ma magari nel mio intimo sarei più tranquilla. Ne parlerò con lui. Oh sì, voglio ancora parlargli di tante cose, perché solo coccolarsi a vicenda secondo me non ha senso. Per scambiarci i rispettivi pensieri ci vuole molta fiducia, ma sicuramente tutti e due attraverso questa fiducia diventeremo più forti. Tua Anne-Marie Frank. Post scriptum. Ieri mattina eravamo di nuovo in piedi alle 6, visto che tutta la famiglia aveva nuovamente sentito rumore di ladri. Questa volta la vittima deve essere stata qualche vicino. Le nostre porte al controllo delle 7 erano perfettamente sigillate. Meno male. Martedì 18 aprile 1944. Cara Kitty, qui tutto bene. Ieri sera è tornato il falegname e ha cominciato a mettere i rinforzi di ferro sui pannelli delle porte. Papà diceva poco fa che secondo lui prima del 20 maggio ci saranno operazioni su grande scala, tanto in Russia quanto in Italia e anche in Occidente. Io faccio sempre più fatica a immaginare che si possa uscire da questa nostra situazione. Dopo questo inverno mite, una bellissima primavera. Aprile è proprio un mese splendido, non troppo caldo e non troppo freddo, con pioggia ogni tanto. Il nostro ippocastano è già abbastanza verde e qua e là si vede perfino qualche candelina. Sabato Beppe ci ha viziati con 4 mazzetti di fiori, 3 di narcisi e 1 di giacinti. Quest'ultimo era per me. Il signor Kugler è sempre più solerte nel rifornirci di giornali. Devo studiare algebra, Kitty. A presto. Tua Anne-Marie Frank. Venerdì 21 aprile 1944. Carissima Kitty, ieri pomeriggio ero a letto col mal di gola, ma visto che mi stufavo e non avevo febbre, oggi sono di nuovo in piedi. Anche il mal di gola è quasi subito verschwunden, sparito. Ieri, come probabilmente avrai scoperto anche tu, il nostro Führer ha compiuto 55 anni. Oggi compie 18 anni su altezza reale la principessa Elisabetta di York. Alla BBC hanno detto che non è stata ancora dichiarata maggiorenne come altrimenti si fa con i principi e le principesse. Ci siamo già chiesti a quale principe sarà data in sposa questa bellezza, ma non siamo riusciti a trovare un partito adatto. Forse sua sorella, la principessa Margaret Rose, potrebbe avere in marito il principe ereditario Baldovino del Belgio. Qui siamo caduti dalla padella nella brace. Avevamo appena finito di sistemare le porte esterne che sbuca Van Maren. Con ogni probabilità ha rubato della fecola di patate dal magazzino e vuole dare la colpa a Bepp. Nell'alloggio segreto ovviamente regna di nuovo il caos più totale. Beppe è fuori di sé dalla collera. Forse Kugler adesso farà pedinare quell'essere spregevole. Questa mattina è stato qui quel signore della Beethovenstraße che fa le stime. Per il nostro cassone ci darebbe 400 fiorini, Anche le altre offerte ci sembravano troppo basse. Voglio chiedere a The Prince se pubblicano un mio racconto, naturalmente sotto pseudonimo, ma dato che i miei racconti per il momento sono troppo lunghi, dubito che accetteranno. A risentirci, darling. Tua Anne Marie Frank. Martedì 2 maggio 1944. Cara Kitty, sabato sera ho chiesto a Peter se secondo lui non dovrei dire qualcosa di noi a papà, e dopo un po' di tira e molla ha detto di sì. Ero contenta, perché è una dimostrazione del fatto che ha buone intenzioni. Infatti, quando sono scesa, sono andata con papà a prendere l'acqua e già sulla scala gli ho detto: «Papà, sono sicura che capisci che quando siamo insieme, Peter e io non stiamo a un metro di distanza. Secondo te è male?» Papà non ha risposto subito. Poi ha detto: «No, secondo me non c'è niente di male. Però vedi, Anne, qui che siamo così stretti, devi stare attenta». Ha aggiunto ancora qualcosa di questo tenore e poi siamo tornati di sopra. Domenica mattina mi ha chiamata vicino a sé e ha detto: «Anne, ci ho pensato ancora». E già mi è venuta la tremarella. «E tutto sommato non mi pare che vada bene qui nell'alloggio segreto. Io credevo che foste solo amici. Peter è innamorato?» «Neanche per sogno», gli ho risposto. «Vedi, io vi capisco bene. Ma tu devi essere riservata. Non dovresti andare di sopra così spesso, né incoraggiarlo più del necessario. In queste cose l'uomo è sempre la parte attiva, la donna può frenarlo. Fuori, quando si è liberi, è tutta un'altra cosa. Frequenti altri ragazzi e ragazze, puoi andartene in giro, fare sport e altre cose, ma qui, se state insieme troppo e poi te ne vuoi andare, non puoi. Vi vedete a tutte le ore, anzi, sempre. Sii cauta, Anne, e non prenderla troppo sul serio». «Ma certo, papà. Però Peter è un bravo ragazzo, è buono. Sì, ma non ha un carattere forte. È facilmente influenzabile, nel bene ma anche nel male. Spero per lui che resti buono, perché a modo suo lo è». Abbiamo parlato ancora un po' e siamo rimasti d'accordo che papà parlerà anche con lui. Domenica pomeriggio in soffitta mi ha chiesto: «Allora, hai parlato con tuo padre, Anne?» «Sì», ho risposto io, «ti racconterò. Secondo papà non è male, ma dice che qui, che siamo così appiccicati, è facile che ci scontriamo». «Ma noi ci siamo messi d'accordo che non litigheremo e io ho tutte le intenzioni di mantenere la promessa. Anch'io, Peter, ma papà non pensava che noi... Beh, insomma, credeva che fossimo amici. Pensi che adesso non si possa esserlo?» «Io sì. E tu?» «Anch'io. Ho detto anche a papà che mi fido di te. Di te mi fido al 100%, Peter. Proprio come di lui. E penso che te lo meriti. Che cosa ne dici?» «Lo spero». Era molto imbarazzato e rosso in faccia. «Credo in te, Peter», ho continuato io. «Credo che tu abbia un buon carattere e che farai molta strada nel mondo». Poi abbiamo parlato d'altro e più tardi ho detto: «Se usciremo di qui, so bene che non ti curerai più di me». Lui si è risentito. «Non è vero, Anne, per niente. Non puoi pensare questo di me». Poi ci hanno chiamati. Papà gli ha parlato. Me l'ha raccontato lunedì. «Tuo padre pensa che la nostra amicizia prima o poi potrebbe trasformarsi in amore», mi ha detto. «Io però gli ho assicurato che sapremo dominarci. Adesso papà vuole che io vada di sopra un po' meno di sera. Ma io non voglio. Non solo perché sto volentieri con Peter, ma gli ho detto anche che mi fido di lui. Mi fido davvero e voglio dimostrargli la mia fiducia e non posso certo farlo se per sfiducia resto giù. No. Io vado».